perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Veronica, ti prego, civilizza questo Milan. Milan, e tutti i giorni comincia la trasmissione se tutti ci diamo i numeri. Non c'è bisogno, basta che tu parli normale. Buongiorno, io ve lo dico, a me con questa sigla da circo mi mettete l'ansia tutte le mattine. Aiuto! Addirittura l'ansia, non credo, caro ascoltatore. Non toccategli la sigla! Allora, siamo qui, buongiorno, i funamboli sono ritornati alle 9 e quasi 8 minuti, tra pochi secondi, qui in diretta su Radio 24. Siamo qui... Come stai, mio caro? Molto bene, molto bene. Ci sono Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti in redazione e c'è il nostro Peter Bescapè qui nella regia di Milano. E in versione natalizia, pronto a portare i pacchi, abbiamo uno splendido Alessandro Chiappini. E allora, siamo tutti pronti a raccontare tante cose anche oggi, tanti racconti funambolici. Ieri ha molto colpito la puntata nella quale abbiamo parlato di testamento biologico e soprattutto abbiamo raccontato il fatto che c'è un'avversione da parte del mondo cattolico nei confronti di questa legge. Abbiamo avuto padre Virginio Beber, che rappresenta 230 strutture cattoliche, a dire che in quelle strutture non verrà applicata questa legge, ci sarà un'obiezione di coscienza, anche se non esiste un'obiezione di coscienza. Questo ci ha molto colpito. E, tra e l'altro, poi ho fatto una riflessione, Alessandro, nella notte, e pensavo effettivamente i cattolici hanno tutto il diritto di farlo, però la cosa che dovrebbero cercare di fare magari è pensare che se vogliono fare delle cose diverse da quelle dello Stato è non avere più bisogno dei fondi dello Stato, no? Esattamente, questa è la questione oggi sul giorno. Io dicevo, ieri la stampa se n'è accorta e colpevolmente forse gli altri giornali non tanto. Oggi invece il giorno, per esempio, raccoglie la voce dell'arcivescovo Giovanni Ricchiuti, che anche lui dice non applicheremo la legge negli ospedali cattolici. Il che vuol dire che, per esempio, alimentazione e idratazione vengono considerate delle cure e dunque mai rifiutabili. Ecco, io veramente non capisco questo tipo di... questo sia accanimento nei confronti di una legge. Uno può seguire tutto l'iter per obiettare, ma fare così mi sembra un po' un atteggiamento tipico all'italiana. Noi è da qui che vorremmo partire alle 9 e 10 minuti, o meglio, raccontateci il vostro parere, l'800240024, se volete, su questo tema, visto che è un tema che abbiamo affrontato ieri e che ha raccolto molte telefonate. Ma vogliamo partire anche da altri temi, per esempio quelli che abbiamo affrontato anche nei giorni scorsi e sui quali vogliamo tornare con i primi funamboli. Gas! Uno dei temi che vogliamo affrontare con gli ospiti, come è un tema sul quale invece vogliamo tornare, lo abbiamo già affrontato per la verità nei giorni scorsi, cara Veronica, se ricordi, ospitando l'ex governatore della provincia, l'ex presidente della provincia autonoma di Bolzano, Luis Durwalder, la questione dell'Austria che... C'è da dire, Alessandro, che come sempre siamo stati dei precursori su questo argomento, abbiamo acceso la polemica e da lì Kurz, il nuovo primo ministro, ci ha sentito, ascolta noi, e subito ha detto tac. Ascolta noi. Allora, Luis Durwalder avevamo avuto ospite a raccontare che in Austria vogliono dare il doppio passaporto agli italiani. E c'è da dire che ieri c'è stata un po' una retromarcia, nel senso adesso vedremo, nel senso che Kurz pare che voglia farlo solo con il consenso dell'Italia. Noi però vogliamo affrontarlo dal punto di vista un po' particolare, perché si è parlato della possibilità anche di dare la nazionalità austriaca ad alcuni atleti italiani che poi gareggiano nelle prestigiose competizioni, tra cui le Olimpiadi. È un po' la storia, se volete, di un'atleta italiana, ex atleta italiana, che in realtà è nata in Germania, allora era la Germania Ovest, a Goch, e che poi ha gareggiato per l'Italia. Si tratta di Josefa Idem. Buongiorno e benvenuto, benvenuta e grazie di essere qui. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Perché ricordiamo, un bronzo alle Olimpiadi con i colori tedeschi. Esatto, nel 1984 a Los Angeles, e poi insomma si è spostata in Italia, il matrimonio in Italia, e dal 92 la prima Olimpiade a Barcellona, poi tantissimi successi fino all'oro a Sydney. Senta, ma in questi casi gli atleti non vengono considerati un po' dei traditori se passano da una nazionalità all'altra, nella patria ovviamente, in Germania nel suo caso? Ma diciamo così, quello di cambiare la nazionalità per qualsiasi motivo è sempre una scelta, credo che sia sempre una scelta molto molto ponderata, e che poi include tutti i ragionamenti, anche questi, no? Del senso di appartenenza, dove si nasce e dove, come si è cresciuti. E devo dire che il mio è stato anche quel timore, perché io sono italiana per amore, mi sono innamorata di mio marito, ho scelto di cambiare paese, il centro della mia vita poi è stato l'Italia, e dal punto di vista affettivo e dal punto di vista proprio del lavoro, dell'atleta, che così ancora oggi non si può chiamare così perché siamo tutti dilettanti. E allora cioè, il timore c'è stato, poi questa cosa la chiarisce ogni persona con se stessa, sapendo delle proprie motivazioni. Per me è stata una motivazione assolutamente nobile, quella di riconoscere che il centro della mia vita era diventato un altro paese che mi aveva accolto, un paese che ho imparato ad amare. Quindi, sì. Ma questo, si avverte una sensazione di pressione avendo due paesi, cioè in qualche modo di tradimento nei confronti di uno rispetto all'altro? Ci si sente guardati male? Guardi, questo concetto del tradimento è molto frutto di una concezione antica di quello che è la propria nazionalità. Oggi è un mondo generalmente molto più mobile, le persone vanno in altri paesi, si impiantano in altri paesi, e allora è chiaro che tutto ciò che ne consegue segue altre logiche rispetto a questa vecchia concezione, no? La patria, il sangue proprio per la patria, eccetera. Quindi io non l'ho mai sentito in questa maniera, non mi hanno mai fatto sentire così, se non attraverso questa domanda, alla quale io ho sempre risposto che è una domanda da non porre, perché non esiste questa questione. No, ma poi la sportiva corre anche per il prestigio, per il successo, anche per l'affermazione personale, è inutile negarlo. Però che effetto le fa? Ma vede, oggi per esempio succede molto spesso che si vanno a cercare atleti che vengono da fuori e cercano di arruolarli per delle nazionali, proprio per una questione di risultato che poi dà luce al paese, no? E sono altri tipi di ragionamento che io non ho mai fatto, sicché non posso determinare fino all'ultima sfaccettatura come si sentono queste persone. Come dico, le motivazioni sono diverse. No, però a lei che effetto le fa vedere che ci sono due paesi, in questo caso l'Austria, che addirittura fa questa proposta, cioè venite da noi atleti? Ricordiamo che poi le Olimpiadi portano prestigio ai paesi, no? Le medaglie d'oro, e quindi anche addirittura contendersi il prestigio sportivo come riconoscimento poi del paese stesso. Io spero che lo spessore del cancelliere austriaco, del premio austriaco, non sia sintomatico, cioè questa situazione non sia sintomatica per il suo spessore politico e filosofico quant'altro. Si imponga peraltro. Io ritengo che questa qui sia stata una considerazione assolutamente fuori luogo, perché va a fomentare una situazione che gli italiani a fatica hanno cercato di risolvere, no? Quella dell'annessione del Trentino Alto Adige all'Italia, perché è uscito vincente dalla prima guerra mondiale, ed è chiaro che a questo sono conseguite una serie di mal di pancia, di situazioni da affrontare, di incomprensioni, di discriminazioni, eccetera, che poi attraverso lo statuto speciale si è cercato di risolvere. Sì, certo, lei dice non riapriamo queste ferite, non riapriamole così. Anche perché, guardi, le faccio notare una cosa. Allora, dopo, a chi si dà il passaporto? Ai tedeschi del Trentino Alto Adige, o anche quelli che provengono di lì e parlano italiano? E quindi vanno a punzecchiare, si è andato a punzecchiare, tant'è che ieri è stato fatto un passo indietro, su una situazione che l'Italia ha cercato di risolvere con molta fatica nel corso degli ultimi 60 anni. No, ma Josefa Idem, noi la vogliamo ringraziare. Devo dire che quando ieri l'abbiamo chiamata la redazione, Veronica ha detto, quando l'abbiamo chiamata, ma avete subito chiamato, lo so, per il caso Boschi. No, allora, non l'abbiamo chiamata per il caso Boschi, però la domanda la dobbiamo fare. Una domanda me la concedo. Però su questo ormai tema sono diventata una specialista di dimissioni. Di dimissioni, ma anche perché dopo che hanno chiesto le sue sappiamo quali fossero le ragioni, capito? Molto così, come dire, lievi. Volevo un parere, ce lo può dare, insomma, su questa questione Boschi. Secondo lei, su quanto è opportuno che il sottosegretario rimanga al suo posto, o quanto secondo lei, in una situazione ben diversa dalla sua, invece sarebbe necessario chiedere o dare le dimissioni? Guardi, è una questione talmente articolata che investe tantissimi campi, no? Quella dell'opportunità, quella della questione penale, quella delle imminenti elezioni, eccetera, che io preferisco proprio non esprimermi in merito, perché in 30 secondi si rischia di dire una cosa che poi cade su un sistema di ragionamenti che non riesco ad inquadrare in pochi secondi. Va bene, che il paese sta male, sai, il paese sta male, cerca di risolversi con tutte le dinamiche politiche, psicologiche e sociali del caso. Quindi di questo va tenuto conto e speriamo in un buon governo per il futuro del paese, dell'Italia. No, ma questo prossimo, sicuramente il dibattito certamente c'è anche sull'opportunità delle dimissioni, e su tutti i giornali e tutti i retroscena raccontano appunto di questo. Noi la ringraziamo, Josefa Idem, senatrice, tra l'altro ha detto del Partito Democratico, non l'abbiamo detto, oltre che ex campionessa mondiale olimpica, qui l'abbiamo presentata soprattutto in questa veste. E grazie per essere stato con noi. Allora, il tema che abbiamo lanciato in apertura, Veronica, che era il tema di ieri, la questione, sì. Vedi, molti scrivono: ah, se vuoi morire vai a farlo in una struttura che te lo permette. Questo è l'ascoltatore, lascia in pace chi difende la vita fino in fondo. Insomma, questa cosa sotto traccia. Però c'è sempre una legge, questo è sempre il punto. Infatti, abbiamo dibattuto a lungo se farla o meno. Questa legge è stato ostico, alla fine è stata fatta. Purtroppo ad oggi è legge di Stato. È molto sottovalutata questa cosa, secondo me, che creerà problematiche. E di questo vogliamo parlare con il prossimo funambolo. Che è un medico, è anche un sindaco a Santa Lucia di Piave, siamo in provincia di Treviso. Si chiama Riccardo Szumski, buongiorno, di origine, tra l'altro, se ho capito bene, anche polacca per metà. Buongiorno, dottor Szumski. Buongiorno. Sindaco, ecco, la chiamiamo qui più in veste di medico, mi sembra di capire. Tra l'altro, lei in un'intervista oggi al Giorno ha detto: io sono cattolico di estrazione, può confermare? Certamente. Il titolo che ci ha colpito, per questo l'abbiamo chiamata, la ringraziamo per essere qui, è questo. Forse è un titolo un po' forte: ho aiutato il mio amico a morire. È una storia, credo, di paese, di un amico che era gravemente malato, credo anche in fase terminale, e lei ha applicato una sedazione profonda. che ci vuol spiegare tecnicamente, adesso non siamo un programma di medicina, ma insomma cosa vuol dire nell'ottica della legge di cui stiamo parlando? Beh, l'episodio si riferisce a un anno fa. Io curo i pazienti a domicilio il più possibile in tutte le situazioni, perché è un medico, come intendo io la medicina, quindi anche i pazienti complessi e importanti. Poi io sono del paese, anche se sono per metà polacco, quindi con la gente ho un rapporto che va oltre quello meramente professionale, perché ci conosciamo da bambini, e quindi in questo caso, in cui c'era un'evoluzione di un tumore che era arrivato alla fase proprio terminale, con un senso di soffocamento, ne avevo parlato tante volte con lui, e una delle cose, che essendo lui stato anche un bronchitico cronico sotto di base, non voleva morire soffocato, non voleva sentirsi morire, e quando non c'era proprio più niente da fare, ci siamo, la famiglia mi ha detto decidi tu. Decidi io tu, cioè questa la, la moglie mi ha fatto, non riusciva neanche a parlare, mi ha fatto un cenno, e io ho fatto nulla di più di quello che deve fare, alleviare il dolore a un paziente, è un compito principale del medico. Questo però, scusami dottore, è il non accanimento terapeutico, cioè voglio dire, nel dibattito di questa legge, come si inserisce questo episodio? Perché non è eutanasia, raccontiamo. Ma che eutanasia? No, infatti. Appunto, non parliamo. No, in questo caso non c'era più niente da fare, l'accanimento è la non, cioè, non soffrire, perché io purtroppo ne ho visti morire soffocati. Nella mia lunga esperienza, cioè io non vorrei essere al posto loro, e nemmeno al posto dei familiari, perché qui si nasconde un po' troppo quello che è il problema, che non è di una singola persona o della persona, ma di tutto il complesso di chi ci sta attorno. Per cui abbiamo insomma addormentato, e nel giro di 30 ore massimo, 24, abbiamo continuato a praticare l'alimentazione con la flebo, perché non riusciva più a mangiare. Quindi se l'idratazione era conservata, la natura ha fatto il suo corso, ma almeno se non ha sofferto quelle ultime giornate e mezza. Ma quindi di fatto quello che lei ha fatto è stato sedarlo? Non sedato in maniera profonda. Sedato in maniera profonda, è chiaro, no? E così la morte è subentrata. È un dosaggio, una pratica che abitualmente si fa, si utilizzano dei farmaci. Tanto per fare un esempio, se uno deve fare una broncoscopia, viene utilizzato in una dose ovviamente molto più bassa questo farmaco, il paziente riesce a sopportare la broncoscopia per vedere l'interno dei polmoni senza accorgersi. Senta, non però, si ricorda nemmeno. Dottor Ciunski, perché lei dice in questa intervista anche basta moralismi? Cioè, che ne pensa del fatto che in strutture cattoliche, ieri avevamo responsabile di 230 strutture, si dica per esempio l'alimentazione e l'idratazione artificiale verranno considerate da noi cure e quindi mai rifiutabili, non terapie come invece stabilisce la legge? In particolar modo va precisato che lei è cattolico, quindi non è che sia distante da... ma guardi, sa, un conto essere cattolici nell'animo, è un conto fare le prediche dall'alto e mai vivere le situazioni, perché la teoria è tutta una bella cosa, anche in medicina compresa, ma la pratica giornaliera, quotidiana, quando tu interagisci con le persone che sono fatte in carne e ossa e hanno un'anima, hanno un sentimento, e le guardi negli occhi, è tutta un'altra faccenda, quindi non esiste un valore che uno chi lo stabilisce. Ma sa, però quello che lei ci racconta la vivono tutti, anche i cattolici vivono situazioni allora, di parenti. La carità cristiana pretende che tu vada incontro e non far soffrire, no? E allora facciamolo fino in fondo, non è, diciamo, fino a un certo momento si fa così perché c'è una ratio della difesa della vita, anch'io sono della difesa della vita, posso aggiungere qualcosa su questo caso? Il mio paziente, il mio amico, prima amico e poi paziente, era stato dimesso un anno prima dall'ospedale per una situazione in cui ai familiari hanno detto non dura più di un mese, io mi sono accanito, lui è tornato in qua e ha fatto 8 mesi di bellissima vita andandosi in giro con gli amici, con i suoi pensionati, con la famiglia, perché su quella patologia mi sono ostinato a dire che non ero d'accordo con i colleghi e l'ho tirato fuori da quella situazione. Poi la sfortuna vuole che è arrivato un evento che si è palesato successivamente, non era forse stato individuato prima, non lo so. E a quel punto l'ha aiutato a non soffrire più. A non soffrire. E alla fine quest'altro tipo di patologia l'ha avuta vinta, perché purtroppo dottore, è disseminata rapidamente, e noi abbiamo affrontato il problema per quello. Prima l'abbiamo aiutato per stare più a lungo possibile meglio, lo abbiamo tenuto a casa, mai ricoverato un giorno, mai. andavo anche tutti i giorni alla notte se serve, ma insomma alla fine però abbiamo preso la decisione che era giusto prendere nell'interesse suo prima di tutto. Io volevo farle una domanda rispetto a un aspetto di cui ieri parlavano molto i cattolici che sono contrari e che pensano di continuare ad obiettare, che è appunto quello di ritenere in qualche modo che il dottore debba avere un rapporto paritario col paziente, non debba seguire passivamente la volontà del paziente, come se questo ne riducesse l'importanza o riducesse il rapporto di fiducia. Lei di questo che ne pensa? Ma il rapporto con il paziente è sempre paritario, nel senso che però alla fine non c'è un'imposizione, anche se devo dire che io decido, ma insomma mi hanno dato un compito, una responsabilità e devo utilizzarla nel meglio. Certo che non, se uno ha davanti 10 mesi di vita, mica decido di farlo fuori prima. Cioè, stiamo parlando di cose assurde. Questo sì, però ieri padre Bebber lo utilizzava a dire non si può. Se un paziente chiede una cosa che un medico cattolico, in base alla sua etica, ritiene non giusta, il medico ha il dovere di non applicarla, questa volontà del paziente. Era il motivo per cui si arriva a dire obiettiamo a questa legge. Non lo concepisco. Il paziente ha un rapporto con me, si è affidato tutto a me. E se uno ha fiducia in me in qualsiasi questione che poi travalica nel mio rapporto, nel senso che mi chiedono questioni sui figli, cioè io devo essere in grado di dare la risposta che lui chiede all'interno delle norme e della scienza e coscienza mia, per il lavoro che svolgo, per il compito che mi è stato affidato, rispondendo anche alla mia coscienza, per cui io poi sono in pace con la mia coscienza. Torno a ribadire che essere religiosi, essere cattolici è qualcosa che non può essere regolato da mere atteggiamenti fatti sulla cattedra e sulla teoria, punto e basta. No, ma è stato molto chiaro nella sua posizione. È chiaro che questa vicenda sarà una vicenda che ci trascineremo, perché ripeto, le voci sempre più contrarie a questa legge, nel senso cattoliche, a dire non applicate il biotestamento, si stanno moltiplicando, e questo inevitabilmente produrrà delle situazioni sì, ma è, mi permetto un'osservazione, è affrontare le problematiche sempre da una parte e dall'altra come integralisti, e così non si va da nessuna parte. Questo è un po' il problema dell'Italia, ragionare per steccati. Più che altro portare avanti il proprio integralismo anche contrapponendolo alla volontà del singolo. Sì, la ringraziamo molto Riccardo Sciumski, medico ma anche sindaco, e mi sembra di capire proprio dal racconto che ci ha fatto, no, il andare a trovare anche l'amico oltre che cittadino di notte, oltre che paziente, insomma i classici casi in cui poi il medico è uno del paese, no? Sindaco, tra l'altro, di centrodestra, cosa che sfida tutti gli stereotipi e i cliché che vedono uno schieramento da un lato e uno dall'altro rispetto a questa questione. Ma questo sì, è una classica questione che interessa tutti, è trasversale. Andrea da Ferrara, buongiorno. Sì, buongiorno Milan, salve. Eccoci. Io ho 2 giorni che mi sento dare dell'integralista e del cattolico integrale, come la vedo io in realtà. Io credo che sul testamento biologico, su cui sono contrario, non lo so, mi pare, anche ragionandoci, che più che integralista io credo di pensarmi come una persona ragionevole, e volevo articolare 2 cose in maniera ragionevole, anche perché credo onestamente che la vedrei così, anche se fossi ateo, agnostico, anche le dico una cosa, guardi. Questa divisione un po' manichea, cattolici, non cattolici, che sento, ma è anche poi rivoltata contro anche il mondo cattolico, perché questa cosa del ci arriviamo sempre tardi perché in Italia ci sono i cattolici, io mi sembra che tutto quello che è stato fatto passare in Parlamento o fuori dal Parlamento è passato sempre regolarmente a maggioranza degli italiani. Certo, io credo che occorra della salvaguardia, e credo che ragionare su una cosa che prevede comunque un finale non reversibile sia una cosa che non si può affrontare con leggerezza.

Nei supermercati Alì e centri Aliper abbiamo ribassato il prezzo di tanti prodotti della vostra spesa quotidiana. Supermercati Alì e centri Aliper. Ogni giorno la genuinità, i sapori migliori, la cortesia e la convenienza di sempre. Prezzi ribassati. Non è una promozione, è una promessa. Anche a Natale. Alì e Aliper. Qualità al prezzo migliore. Donald Trump e l'America, Xi Jinping e l'ascesa globale della Cina. Se ne parla nel numero 79 di Aspenia, la rivista diretta da Marta Dassù, in edicola con Il Sole 24 Ore a 9,90 € anziché 12 euro. I funamboli. La legge sul fine vita l'ha decisa il popolo italiano. Il popolo italiano è laico. Se tu sei un medico cattolico e non vuoi obiettare, non vuoi applicare la legge, non fai il medico in Italia. Abbiamo fatto una cazzata, ci siamo dimenticati di annettere l'Austria. Se avessimo annesso l'Austria non ci sarebbero questi problemi, no? Facciamo. La tax è con la T, è con la T, è con la T, è con la T, è con la T, è così, è con la T, eh. Vabbè, è così, è così, è così. Nostri ascoltatori. Anche tu un brunetta sotto l'albero. Ovvio, ovvio, ovvio, ovvio, ovvio. È così, è così, è così, è così, è così, è così, è così. Allora, protestate pure, ma è così. Allora, c'è i pozzetti parlanti, quelli che fanno jingle, sì. Facciamo il brunetta che ti fa, è così. Adesso devo brevettarlo. Allora, 9:38 minuti, il prossimo funambolo che è con noi è un vice sindaco, siamo in territorio Trieste, siamo in ambito Lega come partito, Pierpaolo Roberti, buongiorno, vice sindaco di Trieste. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, ogni tanto chiamiamo questi sindaci che si arrabbiano un po' e vogliono inasprire le pene, stringere le viti contro l'accattonaggio, che io non ho mai capito che tipo di fastidio dia, se non uno sicuramente. Anche a Milano è stata fatta un'inchiesta, per esempio, sui tanti nigeriani, soprattutto sono, che chiedono l'elemosina. Spesso, purtroppo, dietro a loro c'è il racket, nel senso che vengono obbligati, non è che sono lì perché volontariamente hanno bisogno, cioè sono obbligati a stare lì. Roberti, perché a Trieste c'è questo problema che volete sentire come... Sicuramente è vero, c'è un aspetto, quello che diceva lei, che ricordava lei, quello del racket, che talvolta c'è, e quando c'è ovviamente devono intervenire le forze dell'ordine e la magistratura, che è preposta a fare le indagini a riguardo, per scoprire questi racket e sottrarre soprattutto le persone che vengono sottoposte a questo specie di sfruttamento. Ma c'è anche un altro fenomeno che sicuramente è ancora più diffuso e c'è praticamente ovunque, quello dell'organizzazione. E c'è una sottilissima differenza, nel senso che quando parliamo di racket c'è un reato, quindi va debellato immediatamente con la forza della legge, ma quando c'è un'organizzazione il reato non c'è, perché un'organizzazione cos'è? Semplicemente delle persone che si mettono d'accordo tra di loro, quindi non c'è sfruttamento, decidono e vivono di quello, suddividersi la città e decidono esattamente, come diceva lei, di vivere di quello. Allora, questo dal nostro punto di vista, oltre al fatto fastidio, forse non a tutti darà, a noi dà fastidio vedere delle persone che bivaccano in mezzo alla strada, che si fermano in mezzo alla strada a chiedere l'elemosina, ma soprattutto che sfruttano il buon cuore della gente, perché qua stiamo parlando di questo. Vice sindaco, però non credo che tutti quanti appartengano al racket, io suppongo che esisteranno anche lupi solitari dell'elemosina. Infatti parlavo di organizzazione, poi chiaramente dipende da territorio a territorio, io posso parlare per la mia città, posso parlare per Trieste, dove è evidente che ci sono, se non racket, c'è l'organizzazione. E questa organizzazione prevede appunto la spartizione. Ma questo perché dà fastidio? Cioè, se non è fatto in maniera ovviamente aggressiva, violenta, se uno decide di vivere dell'elemosina, ma guardi, se lo fa in maniera rispettosa, cioè nel senso chiedendo. C'è un elemento, innanzitutto c'è un elemento che è quello di decoro della città. vedere queste persone in mezzo alla città a chiedere la carità non è decoroso sicuramente. Dopodiché, ripeto, c'è l'altro aspetto che dicevo prima, che c'è l'inganno, perché quando si parla di organizzazione e di elemosina fatta per professione, vuol dire che c'è un elemento di un po' di prendersi gioco, appunto, come dicevo prima, del buon cuore della gente, quindi si sfrutta il buon cuore della gente per fare un'attività professionale, e questo sicuramente non va bene. E voi che fate? Che fate? Però quello che dice vice sindaco è molto forte, nel senso che in qualche modo, esulando dal racket, lei così dice che è più importante in termini di priorità il decoro urbano rispetto a delle persone bisognose. Infatti vedo che diverse esponenti cattolici hanno obiettato alla sua scelta. Mi scusi, anzi, è esattamente il contrario. Noi con questa scelta vogliamo dire, tra l'altro nel messaggio del manifesto si dice, non dare se vuoi dare soldi, e questo è bellissimo, è fantastico, e suggerisco a tutti di donare, se vuoi farlo nel modo più corretto. Il modo più corretto qual è? Per esempio, lei mi parlava adesso dei cattolici, per esempio anche dare quei soldi alla Caritas, che magari gestiscono la mensa. Cioè lei dice, le organizzazioni, come lei l'ha chiamato, non sono bisognosi, decidono di vivere così, che è un metodo di vita, che è una professione che lei non accetta, non concepisce. Esattamente, invece il vero povero va assolutamente aiutato, ma chi sta per strada, chi passeggia per strada ovviamente non può rendersi conto chi è organizzazione e chi è il vero bisognoso. Ma quindi cosa fa? Cosa fate invece, praticamente? Cioè... Invece lo fa sicuramente è la Caritas, per esempio. La Caritas fa sicuramente se c'è un'organizzazione, se è il singolo povero che ha bisogno. Ma voi come amministrazione cosa potete fare? C'è questa campagna di sensibilizzazione in cui chiediamo semplicemente di non dare soldi per strada a posteggiatori abusivi e a mendicanti. E suggeriamo invece di darlo alle associazioni. Dopodiché c'è un regolamento di polizia urbana che vieta l'accattonaggio in determinate zone della città. Quindi multa. Di... multa. Sì, c'è una sanzione con la sanzione accessoria del sequestro del ricavato. Del ricavato. E quindi gli rubate lo stipendio a queste organizzazioni. Ci sono già... L'ha detto... involontariamente l'ha detto bene, gli rubiamo lo stipendio. Visto che lei dice solo una professione, gli rubate lo stipendio. Esattamente, lo vivono così, quindi gli rubiamo lo stipendio. Ci sono state già molte sanzioni, vedo, 288 già per accattonaggio e 110 contro i posteggiatori abusivi. Esattamente. Che poi posteggiatori abusivi poi è un reato, un'altra cosa. Infatti, quello è proprio un reato. Che prescinde, esula dall'elemosina. No, quello che io le volevo chiedere invece, vice sindaco, è lei non pensa però che possano esserci delle situazioni contingenti in cui dare degli spicci, dare dei soldi a una persona che è lì per la strada accade nell'imminente, mentre la scelta di andare a donare alla Caritas è una cosa comunque complicata, ponderata, decisa in maniera più strutturata, e che quindi così si finisce ad inficiare proprio quello che è la carità, quella banalmente pratica, quotidiana? No, ma guardi, è proprio il discorso dei soldi che è sbagliato. Noi partiamo dal principio che il discorso dei soldi è sbagliato. Non a caso, quando è scoppiata la polemica sul regolamento di polizia urbana che prevedeva questa eventualità, anzi all'inizio la previsione, la prima bozza prevedeva addirittura il divieto di dare soldi per strada, quindi per tutta la cittadinanza, la stessa Caritas aveva dichiarato: noi non siamo d'accordo sul fatto che venga stabilito un simile divieto, ma noi sicuramente non diamo mai soldi a nessuno. Non diamo soldi a nessuno proprio per evitare di cadere in quel tranello, perché chi è in un momento di necessità non ha bisogno dell'euro davanti al supermercato. Chi è in un momento di necessità piuttosto ha bisogno di una borsa della spesa, ha bisogno di farsi pagare una bolletta della luce, del gas a casa, ha bisogno di farsi pagare qualsiasi cosa, di una coperta se è un senza tetto, ma sicuramente non ha bisogno dell'euro, perché dell'euro il vero bisognoso non se ne fa nulla. Va bene, vice sindaco, noi la ringraziamo. Tra l'altro ieri contrappasso dei contrappassi, ma lei l'ha raccontato in maniera anche molto spassosa, è andato a presentare, lei che ha la delega sulla polizia locale, è andato a presentare una conferenza stampa alla polizia locale, si è dimenticato di mettere il pass sulla macchina, e che è successo? La multa. E mi sono beccato la multa, ma questo è il contrappasso e il contrappasso. Continuo la mia battaglia sul rispetto rigido delle regole e paga. Sindaco, è come il carbone portato dalla Befana, glielo dico. Cioè, capito, l'assessore, il vice sindaco va a presentare la polizia locale, dimentica di mettere il pass, multa e pagare. Ma magari lo sapevano anche che era la sua macchina, secondo me l'ha fatto un po'. No, ma il bello è che mentre ero in conferenza stampa ad elogiare la loro attività e la loro presenza per ribadire questo concetto mi hanno multato. secondo me c'è qualcuno che si è tolto un sassolino. Indaghi vice sindaco, indaghi. Contrappasso. Dai, dobbiamo andare al traffico, c'è il nostro Leonardo Manera funamboloso qui con un grande spirito di giovialità che ci ha raggiunto. Eccolo qua, grande Leonardo. Buongiorno. Dai, no, traffico. Scusa, la voce così. È allegra. Molto allegra, anche l'atteggiamento, l'atteggiamento del corpo, tutto. Mamma, che polemico. Tutto entusiasta. Non voglio immaginare. No, era entusiasta. Dopo facciamo un inciso sulle scale mobili di Via Udine. Sì, sì, foto, c'è una Via nuova Udine. Puntata che incredibile. Spettacolo. Incredibile. Tra poco. I funamboli. Allora, Leonardo è disperato e ci manda le foto in chat delle scale mobili di Piazza Udine a Milano bloccate. Ieri il senso era, io lo so che voi non mi credete, pensate che io si faccia solo polemiche sterili, ma guardate, vi porto la prova provata, questo era. No? Ma non è che Leonardo, è che devi avvicinarti alla scala mobile per farla partire. È chiusa, partire. C'è il cancello a metà delle scale mobili, non si può salire, c'è una testimone, sembra che io sia un matto. No. Vuoi fare l'appello al sindaco, Sala? Elisa, che lavorava con noi, ha una parente che abita in Piazza Udine, ne parlavo con lei adesso e da conferma. Anni, conferma che ogni 4-5 pazzo. Non sono pazzo. Non ogni 4-5 giorni le scale mobili di Piazza Udine sono inagibili. Dovremmo fare un'inchiesta. Chiamiamo adesso... report, l'inchiesta sulle scale mobili. Mi sfotta beatamente per faccio? Questo problema, che è un problema per tante persone che non possono è una polemica sterile. Non è una polemica sterile. Domani vengo a Milano per controllare. Esatto. Quindi, quasi sì. Dai, fai così. Vengo. Domani vieni a Milano e vieni a controllare. Oh, vengo, guarda che ti prendiamo Milano in parola, apposta per controllare. Vabbè, vediamo, io domani vengo apposta. Dai, ok, vediamo. Va bene. E poi non è neanche da dire che i politici possono fare qualcosa, perché mi sono reso conto che la vita dei politici, nonostante alcuni li invidino, dicono che è una vita d'inferno, secondo me. Perché hanno fatto la nottata adesso per la finanziaria. Perché hai fatto questa elaborazione? Ho fatto questa elaborazione perché mi sono reso conto in questi giorni il Presidente del Consiglio partecipa alle riunioni, l'ex Presidente, il signor Renzi, ma sì. Fa delle domande ma non gli risponde nessuno. L'ex ministra Boschi va alle riunioni ma non può parlare. Questi qua non se li fila nessuno. Ma pensa che vita d'inferno, non li considera nessuno, sono lì, partecipano, fanno domande, partecipano non silenti alle riunioni. Hanno un comportamento olimpionico, cioè sì. L'importante è partecipare, ma poi vale. Non dicono niente. La sagacia di Leonardo non è la Manera. Sagacia, no, vorrebbero giusto. Essere più considerati. Va bene. Il mondo è cambiato, non ce ne siamo reso conto. Resi conto. Ma se una persona si svegliasse oggi dopo 50 anni di sonno, scoprirebbe che ormai il mondo in 50 anni si è rovesciato. Ormai nel mondo di oggi, se uno si svegliasse dopo tanti anni, ecco, nel mondo di oggi quelli che guadagnano di più ormai sono dei soggetti chiamati calciatori. Le folle ormai impazzivano per loro. Facevano pubblicità, se rilasciavano qualche dichiarazione le loro frasi erano subito riportate in mass media. Tutte le donne più belle volevano fidanzarsi con loro anche per finire immediatamente sui giornali di gossip. Il mondo intero era interessato ai calciatori, ogni bambino sognava di diventare calciatore. Gli astronauti ormai stavano lassù, nel cielo, abbandonati dai bambini. I bambini non volevano più diventare astronauti, volevano diventare solo calciatori. I più bravi guadagnavano cifre enormi, i meno bravi guadagnavano come il più bravo degli ingegneri nucleari. Donnarumma, il portiere del Milan, guadagnava come tutti gli ingegneri nucleari messi insieme, che infatti per arrotondare avevano cominciato a giocare in porta nelle serie minori. E Barbara D'Urso fingeva di commuoversi. In edicola non si vendevano quasi più quotidiani, però si vendevano tantissimi giornali di gossip. Le persone erano molto interessate a sapere con chi andava a letto uno e l'altro, soprattutto se erano VIP. Alle persone interessavano moltissimo i rapporti sessuali o i rapporti occasionali dei VIP. Alcune persone addirittura preferivano non avere rapporti sessuali di persone perché preferivano occupare il tempo a leggere o a spiare i rapporti sessuali dei VIP. Belen guadagnava più di tutti gli ingegneri nucleari messi insieme, infatti alcuni ingegneri nucleari per arrotondare avevano cominciato a travestirsi da Belen e Barbara D'Urso fingeva di commuoversi. Se per strada qualcuno faceva un incidente, prima di aiutarlo si filmava tutto col telefonino per metterlo sul web e vedere quanti like aveva. Poi se ne aveva pochi si andava a riprendere qualcosa di più cruento. Se qualcuno moriva in diretta, meglio, così i like erano di più. Le web star poi guadagnavano più di tutti gli ingegneri nucleari messi insieme. Infatti alcuni ingegneri avevano cominciato a fare le fashion blogger. Finché un giorno nacque un bambino. Il papà e la mamma gli chiesero: da grande, tu cosa vuoi fare? Il calciatore, il VIP, il Gianluca Vacchi, la web star? E lui rispose: no, Voglio fare ingegnere nucleare. La mamma e il papà scoppiarono in una risata e dissero: dice così perché è piccolo, da grande anche lui vorrà fare il calciatore. Finalmente il mondo si era rovesciato completamente. C'era una volta un comico, si chiamava Walter Valdi, che aveva una battuta che a me è sempre piaciuta tantissimo. Diceva: la torre di Pisa, e se avesse ragione lei? E Barbara D'Urso intanto fingeva di commuoversi. Ecco il nostro Leonardo Manera quando ci dà queste perle di saggezza. Per oggi mi sfotte di continuo. Ma no, adesso qualsiasi cosa dicono. Ma sei un po' la coda di paglia. Come te lo definisci, Leo? Era un complimento. Qual è l'improperio che gli rivolgi sempre? No, ce n'è uno nello specifico. Non lo vuole sentire. Non dicevo quello. Non lo so, me ne dice tanti, quindi deve adesso. C'è una che è spiacevole. Sei una persona spiacevole. Sgradevole. Sì, questo è un classico. C'è Francesco da Milano. No, ma puoi dirlo anche l'improperio. Adesso non ti preoccupare. No, Francesco da dico. Milano, buongiorno, vediamo se Manera. Com'è che mi definisci? Non te lo dico. Va bene. Me lo dirai nella prossima puntata. Francesco da Milano. Futuro. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Sì. Volevo solo fare qualche notazione rispetto a quello che diceva il medico in apertura di trasmissione. Sì. E quella è una pratica di accompagnamento alla morte che viene fatta in moltissimi ospedali cattolici, in molti hospice. Certo. Tranquillamente, non c'è nessuno. Nessuno è a favore dell'accanimento terapeutico. Questo è l'accanimento terapeutico, e anzi, devo dire che i cattolici sono stati in prima fila nel promuovere leggi come quelle sulle cure palliative, che appunto sono rivolte ai malati terminali, eccetera, che purtroppo sono ancora poco applicate in Italia per questione di... Certo, no, è chiaro, questa è una precisazione giusta. Nessuno è a favore dell'accanimento terapeutico, ci mancherebbe. La seconda che volevo fare rispetto alla questione delle strutture. Voi avete giustamente ricordato che la stessa legge, pure fatta piuttosto in fretta, almeno nell'ultima fase, con una discussione fatta appunto molto velocemente. Vabbè, la legge ha avuto un iter lunghissimo, alla fine per chiudere la legislatura andava approvata, non discuto, i cattolici sono cittadini come gli altri e rispettano le leggi dello Stato come e forse più degli altri. E in questo caso si sta discutendo non di violare la legge, si sta discutendo semplicemente se ci sia la possibilità di fare obiezione di coscienza per i medici. Ecco, non c'è. Esatto, però non c'è questa possibilità. Per i medici, lo ricordavate voi prima, c'è la possibilità di non fare delle pratiche che siano contrarie alle proprie convincimenti morali. Questo dovrebbe riguardare anche, ed è stato oggetto di discussione poi, appunto, visti i tempi affrettati della cosa, tutti gli emendamenti. Francesco, guardi, no, io capisco, lei sta facendo un lungo panegirico per dire che alla fine c'è una legittimazione, mi sembra di capire, al non a violare la legge, ma in questo caso invece ci hanno detto sì, violeremo la legge. Guarda, oggi arcivescovo Ricchiuti di credo Bari: non applicate la legge. L'appello ai dottori cattolici, più chiaro di così. Su questo io volevo leggere un messaggio che ci è arrivato su Twitter, che dice giustamente: a me non piace pagare le tasse, rispettare i 50 km orari, pagare le bollette e la scritta non calpestare l'erba. Però, quindi sono autorizzato a non rispettare nessuna di queste leggi. No, perché si dice rispettiamo la legge, ma non deve andare contro i nostri convincimenti, che è un modo di dire: ditelo chiaro, non rispettiamo la legge. Almeno, come dire, è più chiaro, fa titolo, ma alla fine questo è. Vogliamo fare l'appello per la polemica sterile per concludere la prima ora dei funamboli? Così, lo buttiamo già qui. Italiano, hai lamentele inutili? Problemi che non troveranno mai una soluzione? Fastidi sociali di piccola entità che producono comunque orticaria ed effetti collaterali sulla tua pelle? Allora chiamaci ed esponi la tua polemica sterile all'800 24 00 24. Noi siamo qui e ti ascoltiamo sterilmente. No, perché ce n'è una. Oh. Arrivi, esci all'autostrada, arrivi dove c'è il telepass, quello davanti a te non ha il telepass, quindi trova rosso, mette la retromarcia, ma ci sono quattro auto ferme, poi vuole

Scopri tutte le altre storie di Giusta Energia in collaborazione con Enel Energia su ilsole24ore.com. Enel Energia per il mercato libero. A Natale siamo tutti più buoni. Monge però è buono tutto l'anno. E voi lo sapete. Monge, le sciatte e Special Dog sono alimenti sani e genuini, senza coloranti, conservanti e senza zuccheri. Bocconi cotti al forno, patè cremosi cotti a vapore e crocchette con tanta carne fresca. Insomma, una vera prelibatezza. Il regalo ideale per il vostro cane e il vostro gatto. Buon Natale dalla famiglia Monge a tutti gli ascoltatori e ai loro amici a quattro zampe. Monge, il menù di Natale per cani e gatti. Fai crescere le tue competenze in Europa con Erasmus Plus, il programma per l'istruzione e la formazione professionale. Partecipa al bando 2018. Circa 40 milioni di euro per progetti di mobilità in Europa per giovani, con percorsi di formazione professionale, apprendisti ed esperti e per iniziative di cooperazione internazionale. Sei una scuola, un'impresa, un ente locale, una no profit? Su erasmusplus.it/formazione scopri i termini per l'invio delle candidature. Erasmus Plus, istruzione e formazione professionale, gestito da INAP con il coordinamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I funamboli. Per come la vedo io, i medici che si oppongono alle volontà di un paziente commettono un reato di tortura e per questo dovrebbero essere arrestati e condannati. Scusate, se decidono di non applicare questa legge, alcuni, allora io decido di non applicarne un'altra. Ciascuno si applichi quella che vuole. Atleti austriaci, avete bisogno di un aiutino? Mila, buongiorno, ma si può fare l'obiettivo di coscienza sulle bollette? Iniziamo così la seconda ora dei funamboli. Questa è una grande idea però, eh? Sì, devo dire che la iniziamo anche leggendo il messaggio di Livia, un'obiezione non peregrina. Giustamente Livia ci scrive: potete per favore parlare di alcuni cattolici e non dei cattolici? Io lo sono e ho chiara la distinzione tra Stato e Chiesa. Giustamente, insomma, certo. Non tutti, quando diciamo cattolici non vuol dire tutti, non vogliamo mai generalizzare. Lo Stato laico è un grande obiettivo da raggiungere in Italia ancora, no? Direi di sì, direi abbiamo di sì. Sintetizzato sotto l'espressione cattolici tutto quel gruppo di persone che ieri ha aderito alla lettera. Esatto, che, no? Esatto, non vogliamo dire tutti. Non possiamo certo rappresentare le 80.000 sfumature di ognuno, però chiaramente il responsabile di 230 strutture parla, credo, a titolo di queste strutture. Claudio non dalla provincia, da Genova proprio, credo che abbia una polemica sterile, chi lo sa. Claudio, buongiorno. Pronto, buongiorno a tutti. Sì. Ho una grandissima polemica sterile. Attenzione. Allora, brevemente, è capitato tempo fa, l'ultima volta che sono andato allo stadio con mio figlio. Prima di andare a vedere la partita, che era di sera, ho detto vabbè, andiamoci a mangiare qualcosa in quella grande catena che vende schifezze con le patatine fritte accanto. Vabbè, okay. Dai, McDonald's, ma lo può dire? No, quella grande catena. Non cioè, è nel l'unica, senso, non, diciamo, ho, non ho associato schifezze, perché sennò parte una querela, adesso... ma grande catena, sennò mi parte un querelone. Non è di l'unica McDonald's. Grande catena, caro Milan, che vende schifezze. No, appunto. Certo, però. Vabbè, niente. Ora, tu arrivi lì, solitamente c'è un po' di gente, no? Tu stai lì in coda, sì? Guardi il menù, parli con tuo figlio, dici, ma sì, prendi questo, prendo questo, prendo questo. Qual è la polemica? Pa, ordini tutto, e due minuti te ne vai. Pa, col ritmo, questo ritmo. Quello davanti a te, che è stato in coda un quarto d'ora come te, che arriva lì davanti e fa, cosa prendo? E lì, ma è un quarto d'ora che sei in coda, ci avrei avuto tempo di pensare. Mi sembra una polemica sterile. Avrei avuto tempo di pensare. Belin, mi sembra una polemica sterile eccezionale. Claudio, grazie, tu e Claudio. Milan dovete andare in giro insieme, lo sento. Grazie Claudio, giusto, hai avuto un quarto d'ora, cosa fai lì? Controlli il cellulare, parli, ti distrai, ma concentrati su quello che vuoi ordinare, no? Non è anche difficile. Perché il gusto di quei panini più o meno è tutto simile, quindi adesso. Uno vale l'altro, potete chiedere quello che volete. Già io ho scampato la querela dicendo che ho associato catena, grande catena, a McDonald's. Tu non... Assoluto, che il gusto è simile. Subito. Guarda come poi si pente, prima non, c'ha questi sussulti. Non aggravare la situazione. Dai, sono le 10-12 minuti. Scusate, io devo fare un saluto assolutamente ai ragazzi della sicurezza qui sotto, Walter e Riccardo, senza i quali io non sarei qui ogni mattina, perché la mia macchina così oscilla, come dire. Quindi io volevo ringraziarli personalmente. Cosa vuol dire? Non vi fate domande. La macchina oscilla, cioè, ho capito, la parcheggi in quarta fila. Trovare, ecco, onde evitare, ragazzi, di farlo come prassi. Mamma mia, ma che roba. C'è chi mi aiuta a sopravvivere. Guarda, io invece, guarda, giusto per dire, l'altro giorno non avevo il pass in garage, l'ho messa fuori, ho preso la multa e l'ho pagata. E io qui sono l'unico cretino che viene in metropolitana. Vabbè. Questo interessa molto i nostri ascoltatori. Le sono le 10 mobili, altrimenti non le trovi, e 12 minuti, è il momento del funambolo del giorno. Nome: Mauro. Cognome: Bernardi. Età: 40 anni. È il primo maestro di sci paraplegico d'Italia e si batte perché la sua professione venga riconosciuta dalla legge. Eccolo qui, Mauro Bernardi, buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Sentite che bella voce squillante di dov'è Bernardi? Bergamo, provincia di Bergamo, Colzate, un piccolo paesino, provincia di Bergamo. Esatto. Allora, la sua storia è riassumibile purtroppo intanto con un fatto brutto: a 28 anni, incidente sul lavoro, faceva il camionista, l'autotrasportatore, se non sbaglio, Bernardi, no? Confermo il tutto. E perde l'uso delle gambe. Però parziale, diciamo che una gamba un po' la sento, l'altra un po' si muove, ma comunque una paraplegia incompleta, quindi una condizione di disabilità permanente. È il primo insegnante di sci, maestro di sci in Italia, anche se, ecco, ce lo spieghi, in Italia in teoria la legge non prevede la possibilità che le persone nelle sue condizioni possano diventare maestro di sci, e quindi come ha fatto? Allora, ho fatto un po' un percorso diciamo particolare, un po' dedicato. Quando l'INAIL di Bergamo mi portò a fare una settimana di sci, quindi di approccio allo sci, a questo meraviglioso sport da disabile, conobbi insomma una persona che mi ha permesso di entrare nell'Accademia di San Marino e di affrontare un percorso uguale a quello dei normodotati, ma nello stesso tempo con caratteristiche diverse, quindi caratteristiche che erano diciamo delle mie peculiarità, no? Quindi per sciare seduto. Quindi a San Marino è diventato ma perché ha dovuto andare a San Marino, Mauro? Perché è il vantaggio della Repubblica di San Marino, che è una Repubblica più snella e quindi permette di trovarsi e decidere insieme con poche persone, cioè i reggenti, di trovare insomma una formula un po' più snella rispetto alla nostra burocrazia. Perché in Italia, perfetto, incredibilmente, la legge non permette a un disabile fisico di fare il maestro di sci, neanche tra l'altro per insegnare agli allievi disabili. Ecco. E questo è il passaggio fondamentale, cioè quello che un po' a me ha fatto specie, il fatto che la disabilità era il primo requisito per poter insegnare nella mia testa, invece in Italia sono i normodotati, no? Difatti, bravissimo, è diventato un ostacolo perché già i maestri normodotati insegnano ai disabili, che questo è importante secondo me, perché per avvicinare i disabili al mondo dello sci deve esserci anche una figura normodotata. No, certo che questo è importante, ma come dire, il vantaggio di avere uno che scia benissimo ma è disabile, quindi può spiegare anche proprio perfettamente a un altro nella sua condizione la tecnica, diventa invece un ostacolo in assolutamente. Ma lei come... è stata la barriera architettonica più grande che mi sono trovato. Lei come scia? Ha detto che scia seduto, ma in che modo? C'è una struttura che la sostiene? Sì, una sorta di seggiolino attaccato a uno sci con una struttura, con un ammortizzatore, e permette diciamo di essere in sicurezza. Ha nelle mani, al posto di avere i bastoncini, le classiche racchette chiamate così volgarmente, utilizziamo degli stabilizzatori, quindi alle estremità hanno due piccoli sciettini e mi permettono di stabilizzare l'equilibrio e poter sciare insomma. Allora facciamo così, Mauro, stia con noi 30 secondi, ci sono le informazioni sul traffico perché vogliamo approfondire, è molto interessante anche tutto l'aspetto, un aspetto di scelta che lei ha fatto personale, che riguarda da una parte la pensione che lei percepisce dall'INAIL, il suo lavoro che fa gratuitamente, ci deve spiegare un po' di cose. I funamboli. Siamo qui. Allora, alle 10:17 minuti, con noi c'è Mauro Bernardi, che è il primo maestro di sci per disabili in Italia. Allora, lei percepisce questa pensione da l'INAIL, una pensione giusta, una pensione, visto che ha avuto questo infortunio sul lavoro, però ha fatto una scelta secondo me molto bella, cioè dire: questa pensione mi basta e quindi io faccio il lavoro di maestro di sci gratis, è così? Questa è un po', diciamo, la scelta che ho fatto, perché il mio sogno di diventare maestro di sci si è realizzato comunque nella Repubblica di San Marino dopo un corso di 3 anni e 900 ore di corso, dove poi abbiamo studiato diversi esercizi propedeutici per arrivare poi all'insegnamento alle persone con disabilità che utilizzano i miei ausili, quindi il monosci. Però il fattore era questo, che non essendo una professione riconosciuta, la legge quadro della professione maestro di sci in Italia regolamentata da questa legge, insomma, non prevede il maestro di sci disabile. Allora ho detto: vabbè, allora facciamo una cosa, io lo insegno gratis, quindi mi affianco sicuramente a una scuola sci che mi permette di fare questa professione. Nel frattempo non posso percepire niente, perché non avendo comunque riconoscimento ufficiale, non è una professione a tutti gli effetti, quindi faccio il volontario sulle piste e metto in condizione. Ma è pazzesco. Ma la cosa pazzesca, mi permetto di dire, che questa professione potrebbe veramente aprire un mondo nuovo, dove il primo requisito per insegnare è quello di essere disabile, quindi di avere una disabilità. Il secondo sicuramente però è quello di acquisire delle competenze e delle conoscenze, dove attraverso un corso mirato permette poi di anche dire le cose giuste in pista. Sì. Perché il problema è stato questo poi alla fine, che Regione Lombardia, grazie alla Ramagoni, ha portato avanti questa mozione, questa richiesta di riconoscere la figura del dimostratore. Quindi, pensate cosa si debba fare. Dimmi pure, sì, dimmi. Volevo chiederti, ma un lavoro di questo tipo come ti è venuto in mente? Nel senso che, come mai proprio il maestro di sci, nel momento in cui uno decide di reinventarsi e tirare fuori una passione? Perché chiaramente tu avevi degli scogli e invece hai scelto proprio questa cosa. Eh sì, perché più grande la difficoltà, più grande il traguardo e la soddisfazione. Il vantaggio è stato questo, che io avevo il sogno da piccolino di diventare maestro di sci, però non avevamo le possibilità economiche e quindi è restato un sogno nel cassetto. E paradossalmente questo sogno sono riuscito a realizzarlo da disabile. E quando mi sono trovato sulle piste da sci a dire: caspita, ma si può fare? Perché non posso trasmetterlo anche agli altri? Però Mauro, paradossalmente l'Italia in qualche modo glielo impedisce, quindi bisogna trovare queste scamotage per fare, cos'è, il volontario, il dimostratore. Ma è una cosa, vabbè, insomma, per carità, noi italiani siamo creativi e riusciamo a ovviare a ogni questione, ma sarebbe bene ovviarla burocraticamente. C'è una frase infatti che mi colpiva di Mauro, che dice: i veri handicap sono la burocrazia e le barriere architettoniche, più che tutto il resto. Effettivamente, formalmente lei risulta disoccupato, no? Perché non... Io la cosa pazzesca anche questa, sulla carta di identità, come professione, ho dovuto segnare invalido. Cioè io mi chiedo, avevo una qualifica di camionista, quindi ero autotrasportatore. Che professione sarebbe invalido? Non lo so, sto cercando di capire. È vero che è redditizia per chi è invalido dell'INAIL, perché anche questa cosa io vorrei portare la voce di tutti quei disabili che vivono con una pensione minima dell'INPS di 800 euro per chi li va bene e non riescono a avere, diciamo, una professione che gli permette di vivere dignitosamente. Io chapeau, tanto di cappello, all'Istituto Nazionale Infortuni, perché comunque l'INAIL mi permette di vivere dignitosamente, con una pensione di 2.000 euro al mese, e questa pensione che è considerata rendita mi permette veramente di vivere anche bene. Perché ricordiamo, a 28 anni l'incidente, eri nel pieno della tua giovinezza, avevi una vita professionale. Io e Claudia da 3 mesi, io e mia moglie eravamo sposati da 3 mesi e oltretutto avevamo appena acceso il mutuo della casa, quindi figuratevi voi. Ma la mia condizione è una condizione come tante, no? Come di tanti disabili. Il problema è che molte volte non si dà visibilità. E io non voglio farmi portavoce, perché non so tutti i bisogni di tutti i disabili in Italia, però mi piacerebbe portare la voce di quei disabili che vorrebbero tornare a essere ancora utili, ma soprattutto a essere professionisti nella loro vita, nonostante la disabilità. Mi permetta di chiederle una cosa. Se uno dei suoi allievi dovesse avere un infortunio mentre è con lei, lei ipoteticamente potrebbe avere dei problemi dal punto di vista proprio... È proprio qua, bravissimo. Il problema grosso è qua, è per quello che io voglio far riconoscere questa professione, perché io nella mia storia, in questi 7 anni ormai che mi affianco alle scuole, ho fatto sciare circa 300 ragazzi, 300 persone con diverse disabilità, sempre comunque nel monosci che utilizzano il mio medesimo ausilio, e di questi ragazzi non si è fatto male nessuno, provvidenza, fortuna, fatto, chiamiamolo come vogliamo. Però il vantaggio è che è stato che la scuola sci che mi ha permesso di affiancarla, che era la scuola sci di Passione a Folgaria, mi permetto di nominarla perché mi ha permesso di aprirmi questa strada, mi ha permesso proprio, e si sono presi un po' loro questa responsabilità, dove con me usciva un maestro di sci normodotato, e quindi livello di legge eravamo tutelati, quindi formalmente il responsabile è il maestro di sci che viene con lei. Bravissimo. Certo. Ma di ragazzi disabili che hanno voglia di sciare ce ne sono molti? Ma sì, pazzescamente, ce ne sono tantissimi, perché il mondo della montagna è ostile, no? La neve, il freddo, la salita, insomma la condizione dell'ambiente montagna non è un ambiente accogliente come può essere un centro commerciale, per capirci. Certo. Però la cosa bella è che i disabili probabilmente arrivano a spingersi in questa sfida e vedere che sono ancora vivi in questa montagna. Ci scrive un ascoltatore, ma ce lo segnala anche Milan Lucchetti in redazione, che Mauro Bernardi, che ha avuto questo incidente perché una strada, una macchina si è immessa a fari spenti senza darla precedenza, sì, un auto articolato, se non mi ha dato precedenza, giusto a fari spenti, perfetto. No, da allora e anche attualmente è anche un grande testimonial della sicurezza stradale, cioè collabora appunto a dire, anche va nelle scuole se non sbaglio, sì, a raccontare l'importanza della sicurezza, del guidare sicuri, ecco. Sì, ne ho fatta proprio anche questa professione, sono diventato consulente sulla disabilità, insieme alla polizia stradale io vado nelle scuole, porto la mia testimonianza, non tanto nel portare il state attenti o piuttosto il come fare, perché io ho sbagliato, dovevo essere più attento alla strada e non ho visto questo veicolo che si è immesso, è vero, fari spenti la mattina alle 4 in autostrada senza darmi precedenza, però comunque ho sbagliato, insomma. Ma vado a dire proprio il fattore che dobbiamo essere prudenti, dobbiamo prenderci in mano la nostra vita, dobbiamo avere cura della nostra vita, tutti gli atteggiamenti necessari per preservarla, e quindi vado proprio nelle scuole. L'anno scorso, insieme all'associazione familiare Condividere la strada della vita, abbiamo incontrato circa 12.000 studenti. Mauro, ma mi permetta di farle una domanda: lei era già così una forza della natura prima dell'incidente o è stato questo che l'ha fatto diventare così? Io sono veramente colpita. È bergamasco, quindi insomma parte già bene in qualche parte modo bene. La mia mamma mi ha sempre trasmesso dei sani valori, quindi sicuramente qualcosa aveva seminato, no? Seminare in abbondanza si vede, si vede e si sente. Siamo ma oltre i sani valori, io direi veramente una forza della natura, complimenti. Ma Robertanti, grazie davvero. Come va neve quest'anno, ce n'è? Diciamo di sì, anche perché facendo freddo fa si può freddo, sparare, effettivamente. Si può sciare. Domani sono a Folgaria a sciare. Tutti a Folgaria se volete trovarlo. Va bene, grazie Mauro Bernardi per essere stato con noi. Qua ci sono polemiche sterili a non finire. C'è Mario dalla provincia di Bologna. Che ci vuole dire Mario? Mario, ecco. Mario, siamo sterili? Ciao Alino, complimenti per la trasmissione. Ottimo. Che stavo in macchina, mi sono fermato. Benissimo. Ecco. Grazie. È questa la polemica sterile, no? La polemica la porto avanti da diversi anni, che la mattina mi alzo molto presto, specialmente prima quando sentivo la sua trasmissione. Sì. Tutte le mattine la RAI inizia e la sera a mezzanotte termina con l'inno nazionale. Sì, ma anche, mi chiedo. Anche noi, ma anche noi, ma cosa ridi? No, anche ma noi. È un bell'inno, ma perché la RAI non stai bello, che lo rappresenta stesso l'Italia è suonata dall'Orchestra Filarmonica di Berlino? Questa è una polemica. Però non sempre, dipende. No, sempre. È diretta da un direttore italiano, credo Claudia Abbado, credo. Sì, sì. Però e poi è anche suonata con una marcetta, tipo la marcia dell'oca. Adesso la marcia dell'oca evoca un altro passo. È molto più bella la vostra, ma io mi chiedo perché, ma da tanti anni l'ho anche detto tante volte in giro. Però incredibilmente non ha preso piede questa cosa. La guardano tutti un po'. Che nessuno di Berlino e non l'orchestra della RAI o della Marina o dell'esercito o dell'aeronautico o dei bersaglieri. Nessuno si è fatto portavoce di questa polemica. Cioè, perché l'inno trasmesso dalla RAI è suonato dalla Filarmonica di Berlino? Ma Mario, ci sarà un messaggio subliminale esterofilo, dice. Non lo so, ma no, beh, effettivamente quando c'era il maestro Abbado forse si poteva spiegare così. Ma io mi ricordo che la Radio Rai, per esempio, era diretta da Levi qualche anno fa, poi è cambiata. Non so se l'orchestra fosse la stessa. Davvero tentando di risolvere la polemica sterile. Stiamo affrontando la polemica sterile. Mario, grazie comunque. Lorenzo dalla provincia di Savona, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Eccoci. Grazie per la trasmissione di prima sul disabile, il maestro di sci, veramente importante. Allora, la mia polemica stera è questa: io ce l'ho a morte quando sei in coda, incolonnato in autostrada, soprattutto su più corsie, e ci sono quelli che continuano a cambiare corsia. È vero, perché dicono si... mi metto qui che va più avanti quella di mezzo, no, mi metto di qua, tra i passi, poi l'altro che cambia. Io lo faccio sempre, Leonardo Manera lo fa sempre, sì, mi sposto in centro destra, allora gli sta bene tutti i disagi che attraversano le scale mobili. Giusto. I disagi delle scale mobili come contrappasso, giusto. Lorenzo, siamo tutti con lei, giusto, più scale mobili nella vita di Leonardo Manera per ogni cosa che fa sbagliata. Ah, comunque volevo dire questo, vi ricordate quando ho detto la polemica sterile dell'impegnare l'incrocio? Impegnare, sì, l'incrocio col semaforo. Ieri accompagno mia figlia a scuola, svolto in un angolo via Melchiorre Gioia, quindi una via di scorrimento a Milano abbastanza, non funziona il semaforo alle 8 del mattino, ma non c'era il vigile. Vi assicuro, la giungla. La giungla. A un certo punto tutte le macchine, perché uno voleva girare, ci siamo incastrati in un incastro perfetto per 5 minuti fermi. Nessuno si poteva spostare. La teoria dell'autogestione è già decaduta. Senza semafori, come a Napoli, decaduta. Virtuosi. È la dimostrazione che abbiamo bisogno di regole stringenti per sopravvivere. Cioè, totalmente. Anzi, decaduta. Ci sono pochi semafori, andrebbero messi proprio. Totalmente decaduta. Impegnare l'incrocio del quando il semaforo è verde o rosso, figurarsi quando non funziona. Proprio da, anche qui, da cintura nera di karate, quando mai non l'ho presa. Va bene, andiamo a sentire le informazioni sulla borsa, poi parleremo di un nuovo funambolo che, pensate, ha aperto il primo negozio a Torino, non è il primo in Italia, ma il primo a Torino, dove si paga in Bitcoin. Questa criptomoneta che sta facendo. Sapete che sta questo mese noi lo stipendio lo prendiamo in Bitcoin? No, me detto? Non credo. Spero di no. Non ma come lo so. Speri di no? Scusami. No, sei, io sono tradizionalista, lo vorrei in euro, neanche con le vecchie lirette. Proprio io in euro. Balboa panamense. Va bene, andiamo alla borsa. Le stelle di Unieuro. Il robot da cucina KitchenAid ora a 259 euro, il 50% di sconto. Il regalo che sognavi, al prezzo che volevi. Promozione valida fino al 24 dicembre. Unieuro. Buone feste, sempre. Guardiamo al futuro, verso un futuro migliore, per tutti. Perché noi, in Bristol Myers Squibb, ci impegniamo a scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci che aiutino pazienti affetti da gravi malattie. Una passione vera che guida il nostro lavoro e ci spinge a perseguire importanti risultati. I nostri successi si misurano grazie alla differenza che facciamo nella vita dei pazienti. È questo il nostro riconoscimento più grande. Mamma, tieni tu, Luca! Tranquilli, con Angel Care Video di Poppa Pedretti vedo il bimbo, gli parlo e lo ascolto senza spostarmi dal divano. Sei grande! Grande Angel Care Video. Per saperne di più, visita il sito www.poppapedretti.it. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Ehi, amico! Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, evviva! Vai su agenti.it. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! Benvenuto nel sistema CombiVox. Inserire codice. Inserito impianto totale. La tua casa, i tuoi spazi sono al sicuro grazie al sistema CombiVox, che integra le funzioni di antifurto, videosorveglianza e domotica. Scegli CombiVox, garanzia di sicurezza made in Italy da oltre 30 anni e goditi la tua tranquillità. Sempre. CombiVox ti protegge, ovunque tu sia. CombiVox. Enjoy life. Safely. CombiVox.it. Conquistate il domani invece di aspettarlo. Cogliete minuti, ore, intere giornate, in un singolo attimo. Nuova Audi A8 è qui. Un'auto dal design elegante e dalle avanzate tecnologie di guida assistita per garantirvi il massimo della sicurezza, del comfort e della performance e per ridefinire ogni standard, anche quello del tempo, la vostra risorsa più preziosa. Forget the car. Audi is more. Scoprite nuova Audi A8 e Audi Intelligent Assistance su audiinnovative.it. Stress da lavoro? Ricaricati tra le Dolomiti. Nella schiarea San Martino di Castrozza Passorolle ti aspettano piste perfette e panorami mozzafiato per un break all'insegna di sci, divertimento e benessere. Segui le webcam su sanmartino.com. Le avventure sulla neve sono già iniziate. Cerco un dolce senza lattosio. Freddi. Lo vorrei con meno di 100 calorie. Freddi. Voglio una merendina dal gusto diverso ogni giorno. Freddi. Dolcetto Freddi. Nei gusti di fragola, albicocca, cacao, ciliegia o ricoperta di glassa fondente. Ci hanno chiamato pazzi, noi di Costantin. Aprire nuove stazioni di servizio mentre gli altri le chiudono? Una pazzia. Prenderci cura della tua auto offrendoti i prodotti più adatti per affrontare l'inverno? Una pazzia. E ora che in questi giorni ad ogni rifornimento regaleremo una confezione di pasta del rinomato pastificio Dalla Costa? Chissà cosa diranno. Buone feste dalle stazioni di servizio Costantin, dove fermarti ti conviene. Stressato dalla vita quotidiana? Concediti un momento di benessere. Gli estrattori di succo Urom sono adatti a tutta la famiglia. Facili da usare, dal design elegante e con la speciale Slow Squeezy Technology. Il sistema di spremitura lenta brevettato da Urom, pensato per preservare tutte le caratteristiche nutrizionali di frutta e verdura. Urom, il succo fatto in casa, di alta qualità. Vieni a provare le nuove generazioni di estrattori Urom presso i rivenditori ufficiali che trovi sul sito uromitalia.it. I funamboli. Una religione contraria alla fattura. Da domani niente più tasse. Ma secondo voi nel 2018 è ancora possibile aspettare 18 minuti al passaggio a livello? Ma dico io, ma quando si abbassano quelle sbarre? Quando il treno è ancora a 20 km di distanza? Ma non è possibile, dai, questa è una polemica sterile. Sì, un po' sterile, un po' sterile. Devo dire che molti ironizzano sulle leggi, ah, non voglio pagare le bollette. Però in realtà è una legge seria, questo è il mio testamento, ma capisco che porti a queste... a questa ironia sul legge in sé che violare. Porta l'ironia l'atteggiamento di chi l'atteggiamento, non lo vuole osservare. Certo. No, però è chiaro, è innegabile che voglio dire, questa è una legge che ha delle implicazioni etiche, su questo non dobbiamo dimenticarla. Sappiamo anche che è un'annosa polemica quella dello Stato laico in Italia e di quanto le ingerenze di alcuni aspetti cattolici possano essere mal tollerate dai cittadini. Sì. C'è una polemica sterile che vuol farci Maurizio dalla provincia di Monza e Brianza. Maurizio. Ha cambiato idea. No. Pronto? Pronto. Pronto. Pronto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Maurizio. La mia polemica sterile è rivolta a quelle persone che quando rispondono a un programma radiofonico, sì, il conduttore gli chiede, dimmi, non rispondo niente. Niente, la telefonata finisce lì, niente, no. Dica, e niente, niente. Appunto. Allora ciao. Dici perché hai telefonato? Niente, no, beh, forse vogliono dire niente Maurizio, non lo so, dica niente, effettivamente. E niente Maurizio, no, arrivederci, la ringraziamo. Anche come intercalare forse ti dà noia a te. Per questa... No, che mi volevi dire? Ma no, niente. Niente, non... niente. No, niente. Effettivamente non è il massimo. Niente. Grazie divisivo. Maurizio. Allora, vogliamo salutare il prossimo funambolo di oggi che si chiama Roberto Malanca, è consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Torino, ma soprattutto l'abbiamo chiamato perché è titolare di un negozio a Torino dove si può pagare in Bitcoin. Eccoci qui Malanca, buongiorno. Buongiorno. Nome del negozio, Ullala, che forse è l'espressione che uno dice quando si trova a dover pagare in Bitcoin. Certo. O no, esatto. Malanca. Esatto, sì. Beh, non è soltanto legato a questo il nome. Ma negozio di che tipo intanto? Beh, è quello che gli americani chiamano il variety store, cioè family store, è un negozio che ha più di 4.000 tipi di articolo che spaziano dall'oggettistica, alle creme per il corpo, alla cancelleria, agli accessori per animali, a quelli per biciclette. Insomma, abbiamo tantissimi articoli, tutti selezionati. Allora ci faccia capire, perché noi qua non siamo trasmissione di economia, non siamo focus economia, certo. Però tutti forse sanno che il Bitcoin è questa criptovaluta, no? Una moneta virtuale che adesso mi dicono sia quotata adesso a 14.344 euro. Questo le risulta? Che è al centro del dibattito. Ha un andamento, diciamo, alquanto ribelle, ecco, nel senso che è cresciuta tantissimo negli ultimi 8 mesi. Sì. Provocando ovviamente qualche piccolo problemino anche pratico, nel senso che essendo cresciuta tanto la moneta sono cresciute tante anche le commissioni, quindi questo crea qualche piccolo problemino per le piccole transazioni. Sì. Però effettivamente questo è anche il motivo per cui molti sconsigliano anche di investire in Bitcoin, un qualcosa che voglio dire non ha dietro niente di solido, nel senso banche, che non è una moneta vera, è una moneta virtuale, quindi... Sì, questo in realtà è anche per assurdo è anche la sua forza, cioè il fatto che non abbia banche che la controllano, governi sì, controllano. È un tipo di moneta che può essere visto sotto due aspetti diversi, o come asset, e quindi esattamente come se fosse un investimento sul mercato azionario, un bond, eccetera, quindi un asset, se vogliamo, sul mercato di rischio, quindi legato a dinamiche che sono in parte quelle di mercato, in parte dovute alle regole imposte da Ma ci spieghi nel suo negozio come funziona? Cioè uno arriva lì alla cassa e che fa? Ma in realtà il Bitcoin qui da noi è un metodo di pagamento in cui esiste quello che si chiama il wallet, che è un portafoglio virtuale, è un portafoglio software, ecco, diciamo, che può essere messo sul cellulare, sul tablet, sul computer. Quando uno arriva alla cassa gli generiamo un grafico, un QR code a video del nostro computer, lui lo fotografa con il cellulare su cui ha il wallet e parte quella che è la transazione. Nel QR code ovviamente c'è scritto l'importo e a chi va. Di equivalente, ovviamente, cioè l'equivalente in euro in Bitcoin. Noi scriviamo l'importo in euro e mettiamo lo scontrino in euro, perché questo è l'unico modo con cui si può effettivamente poi pagare le tasse, essere nella legge. E lui paga in equivalenti di Bitcoin o frazione di Bitcoin. Ma voi poi parte questa transazione in Bitcoin, che va a finire su un circuito tipo quello del bancomat, per intenderci, il quale poi ci fa la conversione dei Bitcoin in euro e ci fa direttamente il bonifico in euro sul conto corrente. Quindi noi parliamo in Bitcoin, ma poi di fatto dal punto di vista economico, finanziario e se vogliamo anche legale, lavoriamo in euro. La traslazione in euro la fa, sì, nel senso che lei quello che le arriva in Bitcoin poi lo traduce in euro. Sì, non sono io a farlo, è questo circuito internazionale che lo fa al tasso di cambio del momento, quindi di fatto viene garantito il valore. Anche perché fino al momento una dichiarazione dei redditi in Bitcoin non è consentita, o arriva l'agenzia delle entrate, arriva la guardia di finanza, dice guardi, le do questi scontrini in Bitcoin, e effettivamente non è. Ma se ci pensa ci sono anche circuiti nazionali, locali, che usano altri tipi di monete. Sì, come no, il Sardex per esempio è una delle più. Il Susino, voglio dire, ci sono monete che hanno un circuito alternativo a quello dell'euro, dove dietro non ci sono banche, ma sempre, non ci sono governi, sempre parallelamente alla, come dire, alla contabilità tenuta, l'unica moneta che noi... Il vantaggio per chi paga qual è? Il vantaggio per chi paga in Bitcoin qual è? Dipende appunto da quelle due visioni. Chi lo vede come asset tipicamente non va a spenderli quei soldi, perché lo usa come bene di investimento, bene finanziario, sperando che salga. Esatto. Però anche questo, una volta che è salito, io ho realizzato, facendo finta che abbia un portafoglio in Bitcoin, il valore sale tantissimo, ho realizzato un guadagno e poi posso decidere questo guadagno di venderlo e convertirlo in euro, oppure di andarmi a comprare qualcosa di qualche bene reale che a questo punto, che a questo punto diciamo dal mio punto di vista è un realizzo immediato di un guadagno, perché poi alla fine mi porto a casa qualcosa di vero. Ma Roberto, lei ha deciso ante litteram di iniziare ad accettare i pagamenti in Bitcoin, perché sappiamo che negli ultimi mesi se ne parla moltissimo, negli ultimi 5 in particolare c'è stato anche un incremento dell'utilizzo del Bitcoin, ma prima lei era abbastanza un alieno in questa scelta. Sì, noi credo che il nostro negozio sia uno dei pochissimi del nord-ovest d'Italia dove si può acquistare in Bitcoin beni reali. reali, cioè cose che uno si prende, si mette in tasca e lo porta a casa. Noi abbiamo cominciato circa 3 anni e mezzo fa, tra una serie di formule legate a una politica di marketing, se vuole, di negozio, che è quello di attrarre il più possibile clientela all'interno del negozio. Una cosa, se vuole, molto semplice. E questo attrae? Cioè attrae come curiosità o attrae davvero? Cioè il fatto che si possa pagare in Bitcoin? A me attrarrebbe come curiosità. Vede, la stiamo chiamando perché molto, ci incuriosisce, no? Esatto, molto cinicamente il motivo potrebbe anche non essere importante rispetto al risultato. In realtà quello che a me importava era evidentemente attrarre un tipo di pubblico che in quel momento, per quel motivo lì, non veniva in negozio. Abbiamo altre iniziative parallele, per cui noi ovviamente facciamo opera di promozione del negozio. Sì, questa un'operazione di marketing, in modo. Un'operazione di marketing ci sta, esatto. Se è un'attività commerciale. Senta, per me che sono ignorante, come faccio ad avere dei bitcoin? Ah, beh. Vai sulle piattaforme dove li vendono. Possono comprare, esatto, sulle piattaforme, si possono scambiare tra privati. È una moneta corrente, è una moneta come se fosse denaro contante a tutti gli effetti. Qua vicino chiedi a noi al nostro Lorenzo Nespoli in redazione, che è lì tutto intrippato. Sempre è un Bitcoin. Detentore di Bitcoin, Bitcoin. Credo che li abbia venduti. Qui a un paio di isolati dal nostro negozio c'è perfino un banco. Anzi, si definisce così: sono l'unico che non ha guadagnato con il Bitcoin. Cioè l'hai venduto poco prima che negli ultimi mesi andasse a quote. Cioè il nostro Lorenzo Lespo, lei capisce Roberto Malanca, capisce il fiuto per gli affari della nostra redazione. Fantastico. Va bene, comunque la ringraziamo perché ci ha spiegato questo funambolismo davvero di questo negozio ullala a Verremo Torino a fare acquisti ullala con in Bitcoin. Ovviamente molti dicono ma si paga solo in frazioni. Beh, effettivamente se adesso il Bitcoin è quotato in questo momento a 14.344 euro un bitcoin, sì, non credo, a meno che uno non compri una cosa da 14.000 euro paga in un bitcoin, se no ci sono le frazioni del bitcoin, cioè una, la più piccola è il Satoshi che è il pseudonimo, ma smettila, l'ha inventato, è lo pseudonimo di chi ha inventato il bitcoin. Fate i bravi, è il traffico, dai, il momento del traffico. I funamboli. Due giorni fa mi viene accreditata la 13ª. Oggi, dopo aver comprato qualche regalo e spese varie, non mi è rimasto più nulla. Non volevo crederci, ma è così. Well, it's so crazy, her mind is falling apart. She's on the road and she goes, but she won't get far. È così, protestate pure, ma è così. Va bene, alle 10:47 minuti diventerà un tormentone. Oh, Veronica, qui abbiamo un nuovo ospite oggi, Chi c'è? Sì, è un signore che è entrato, si chiama signor Gandolfo. È un ospite, un signore che Gandolfo? Pensa, Gandolfo, signor Gandolfo, non ha paura di fare lavori di ogni tipo. Buonasera, buongiorno, guardi, è vero. Io non ho paura di lavorare, a volte si sente dire che ci sono lavori che gli italiani non vogliono più fare, li fanno gli extracomunitari. Guarda, io faccio i lavori che non vogliono più fare neanche gli extracomunitari. Addirittura. Ho fatto controllore di qualità di cibo per gatti. Bisogna andare dove ci sono le vasche di cibo per gatti e annusare che il cibo sia fresco. Se ci sono dei dubbi bisogna assaggiarlo. Che schifo. A me piaceva perché avevo sempre la nausea, così quando tornavo a casa non avevo mai fame, risparmiavo sul cibo. In più mi sono messo in forma, sono dimagrito meglio che con la dieta al dietologo. Aspetti positivi, insomma. A tutti quelli che si lamentano con la palestra, che dicono che la palestra costa tanto, io dico andate per un mese a fare il controllore di cibo per gatti, vedete che vi mettete in forma a forza di digiuno, per via nausea, è meglio palestra. Ci saranno delle controindicazioni. Allora, però, l'unica controindicazione è che sotto casa sua è sempre pieno di gatti che ti fanno le fusa. perché ma va bene così, quando ti torna la fame prendi un gatto e te lo mangi. Mangi il gatto. Lei non l'ha fatto questo. Ne ho mangiati centinaia. No, di gatti. È reato. Cosa dice? È diventato il mio cibo preferito. Ma no, no, no, no. Però così ha ripreso peso. Mamma mia, un pochino, ma comunque nei momenti di crisi non bisogna fare gli schizzignosi. Che altri lavori ha fatto? Dai. Allora, il pulitore di bagni chimici. Mamma mia. Ha presenti i bagni chimici. Sì, che... dobbiamo tirare la manovella, è un lavoro secondo alcuni veramente schifoso, nauseante. Infatti lei lo sconsiglia. Io lo consiglio a tutti. No. Sai quanta roba cade dentro i bagni chimici? Sì. Telefoni, portafogli, anelli, catenine. Che roba. Solo che se la roba cade nei bagni normali, poi va via nello scarico. Chi si è visto, si è visto. Invece nei bagni chimici la roba resta lì sul fondo. Fondo. Ma chi la perde non ha il coraggio di recuperarla perché va in fondo, fa troppo schifo. Allora intervengo io. Quando il cliente è andato via, entro con la muta e recupero tutto. Come stipendio non mi dà neanche 1.000 euro al mese, con quello che recuperavo e poi rivendevo arrivavo a 5.000. Meglio della palestra. In che senso la palestra? Per dire, quelli che vanno in palestra sono tutti fighetti che non farebbero mai pulitore di banchini. A parte questi lavori, cioè, il più schifoso che ha fatto? Il raccoglitore di seme di animali. Come di serve quando i padroni vogliono fare la fecondazione artificiale, gli animali da soli non ce la fanno. Oppure, ci pensa lei? Sì, sa con quanti animali ho fatto? Cavalli, tori, pecore, zebre, una volta anche un ippopotamo. Questo è veramente disgustoso. Eh no, è bello. Ma come è piaciuto? È perché a forza di frequentare gli animali nell'intimo li conosci meglio. Altro che quelli che vanno a fare i safari fotografici, sono fighetti come quelli che vanno in palestra. Invece di fare i safari fotografici, andare in giro a masturbare ippopotami che riconoscete meglio gli animali, fighetti. Oh, mamma mia, è un lavoro. Sì. Aspetti positivi anche qui, lei. Ma trova. Certo, in più l'animale capisce, con l'animale alla fine stabilisce anche un rapporto umano. Guardi, alla fine mi sono trovato meglio con l'ippopotamo che con la mia ultima fidanzata che andava tutti i giorni in palestra. Quindi con la fidanzata non è finita. No. Perché possiamo chiedere perché? Alla mia fidanzata non piacevano i gatti, neanche come sapore. Ma dai, non si dice. Si lamentava dei regali che le facevo: telefonini, portafogli, catenine. Ah, ho capito dove li diceva che avevano un cattivo odore. Soprattutto la gelosa dell'ippopotamo. Certo, questo vabbè, però insomma, è comprensibile. Gandolfo, sì, esatto. Ma era in carne la sua fidanzata. Fighetta di quelle che vanno in palestra anche lei. Vabbè, senta, per concludere, mi sembra di capire che chi ha buona volontà trova sempre da lavorare. Guardi, l'importante è essere ottimisti e non perdere tempo in palestra. Va bene, vuole lasciarci con un ultimo voglio messaggio? Solo salutare Marcello. Marcello che è l'ippopotamo con cui ho avuto a che fare, mi sono anche affezionato. Ciao Marcello, ascolta sempre Radio 24. Mandiamo un abbraccio all'ippopotamo Marcello. Signor Gandolfo, va bene, l'importante, vedi, non c'è lavoro. Veronica, bisogna darsi da fare. Non fargli schizzinosi, fighetti, palestra. Pulitore di bagni chimici. Alessandro, ci aggregriamo e io vado a fare la parte gatto. E tu ti dedichi all'ippopotamo. No, secondo me tu vuoi fare la parte palestra. Ma non può, fighette, hai palestra, non va bene. Allora, siamo quasi giunti alla conclusione di questa puntata dei Funamboli. Guardate, allora, quando uno vuole concludere la puntata male. Che succede? Male. Che c'è? Quando uno vuole concludere la puntata male, ci ha chiamato Anacleto. Anacleto. Felicità! Che c'hai Anacleto? Che vuoi dirci? Buongiorno. Tutti. Ciao, auguri Anacleto. A tutti, prima di tutto anche di Gandolfo, detto il comico. Ce l'ha con me Anacleto. Anacleto ce l'ha col mondo, quindi Anacleto non ti preoccupare. Mettiti in coda, signor Moretti. No, davvero, io... sono, mi calma ride e scherzare, mi calma anche pigliarmi per il culo, sai come sono fatto io, no? Certo. E comunque niente, grazie della compagnia che mi tenete. Te ne vai per sempre? No, pensavo un attimo. Maria, ti volevo dire, ora sto organizzando il cast per l'Isola dei Filosofi. Sì. Te la mando con vocale col numero del mio figliolo. Va bene. Beh, io vengo sicuro. Va bene. No, te sei in studio, fai la parte della conduttrice. Perfetto. E invece perfetto. La parte di signorini la fa Maria. Va bene. E poi il comico lo mando sull'isola. Il comico sull'isola. Anacleto, era fondamentale questo messaggio per concludere la puntata dei Funamboli. Devi sapere che ogni toscano che chiama io dico: ma era Anacleto, ormai è così, eh. Ti auguriamo un buon Natale, stai in famiglia, stai vicino a tuo figlio invece di rubargli il cellulare per mandarci messaggi. Tienitelo buono tuo figlio, poi, se no non puoi più comunicare col mondo. Sì, puoi anche comprarti un cellulare di quelli con WhatsApp adesso che sei in pensione, caro Anacleto. Glielo vogliamo regalare per Natale? No. Crowdfunding? No. È il nostro amico Anacleto che ogni tanto ci chiama dalla provincia di Pistoia. Allora, dobbiamo concludere la puntata dei Funamboli, ci ritroviamo domani puntualmente alle ore 9 in diretta. È la penultima puntata prima di Natale, o no? Sì. Emozionato, ragazzi. In diretta, poi abbiamo il meglio di gli speciali. Gli speciali, faremo uno speciale per il giorno di Natale e uno speciale per il 31, per la fine dell'anno. Quindi ci tocca rimanere qui.